Fotogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Resta alta la tensione in Campidoglio, l'assessore Berdini sulla Raggi è impreparata, intorno a lei una banda, avrebbe detto alla stampa, poi lui smentisce. Grandi ascolti per il Festival di Sanremo, come avete appena sentito, oltre 11 milioni di telespettatori e share che supera il 50%, il più alto degli ultimi 12 anni. Migranti, boom di arrivi nei primi 40 giorni dell'anno, 3.500 in più rispetto allo stesso periodo del 2016, poco più di 3.000 i ricollocamenti. E negli Stati Uniti inizia la discussione sul cosiddetto Muslim Ban in corte d'appello, i giudici assicurano, decideremo presto. Scontro sulla copertura dell'Arena di Verona, l'ex soprintendente è contrario, replica il sindaco Tosi, burocrate e retrogrado. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it invece se ci volete scrivere un'email. In apertura torniamo sulle vicende del Campidoglio. Non c'è pace per Virginia Raggi e per la Giunta 5 Stelle di Roma. A far discutere e ad alimentare nuove polemiche oggi sono le frasi di Paolo Berdini pubblicate dalla stampa. La sindaca è impreparata, si è circondata di una corte dei miracoli e si è messa vicino a una banda. Lei e Salvatore Romeo sono sprovveduti, secondo me erano amanti, è lo sfogo dell'assessore all'urbanistica riportato dal quotidiano torinese. Non ho mai dato un'intervista alla stampa, parlavo con due amici e il giornalista ha carpito qualche frase distorcendone il significato, replica stizzito stamattina il diretto interessato. Ad essere impreparati siamo tutti noi della giunta, me compreso, non immaginavo il baratro che ho trovato, la città è messa in ginocchio, chiarisce poi Berdini. Sul fronte dell'inchiesta nel frattempo slitta l'interrogatorio di Romeo, indagato per la sua nomina a capo della segreteria politica della sindaca, con stipendio triplicato. Una promozione per la quale ad essere indagata ora è anche la stessa Raggi, alla quale è stato contestato un secondo abuso d'ufficio dopo quello per la nomina del fratello di Raffaele Marra, per la quale è accusata anche di falso. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Torna sotto quota 200 punti lo spread, anche qua la tensione resta comunque alta sui mercati. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, occhi puntati anche oggi sul differenziale Simone tra BTP decennali e Bund tedeschi che resta attorno a quota 200 punti, quota superata in apertura di seduta, ora è leggermente sotto, per la precisione in questo momento a 198,40 con il rendimento del decennale al 2,31%. Sul pricing dei mercati sullo spread si è espresso ieri ampiamente il ministro dell'economia Padoan, ha spiegato che questo livello dell'indice ci rammenta di fatto l'importanza per un paese come il nostro di tenere sotto controllo il debito, cosa che questo governo sta facendo, ha detto Padoan. La riprova arriva dall'impegno di Palazzo Chigi con l'Europa per portare il deficit al 2,1% del PIL, così come richiesto. La manovra di aggiustamento arriverà presto, probabilmente entro fine marzo, ha annunciato quindi il responsabile del Tesoro. Un'eventuale procedura di infrazione sarebbe allarmante e va evitata. Altro capitolo, il decreto banche, battute finali al Senato dove si attende a minuti che il governo ponga la fiducia. Il provvedimento deve passare alla Camera e va convertito in legge entro il 21 febbraio. Dal presidente del Senato Grasso, la bocciatura dell'emendamento già criticato dalle opposizioni che prevedeva una fideiussione di 97 milioni di euro per la Ryder Golf Cup, non c'entra nulla con la tutela del risparmio, ha detto Grasso. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Siamo alle questioni dell'immigrazione in Italia, oggi dati del Viminale, mentre Gentiloni incontra il presidente tunisino. Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2017 rischia di battere ogni record sugli sbarchi di migranti. In poco più di un mese, infatti, tra il 1 gennaio e il 7 febbraio scorso, sono stati 9.349 quelli arrivati sulle coste italiane. Un boom, secondo il raffronto del Viminale, con i dati dello stesso periodo del 2016, quando a sbarcare furono 6.030 migranti, ancor meno nel 2015 con 3.007. Il porto con il maggior numero di arrivi è quello di Augusta, seguito da Catania, Trapani, Reggio Calabria e Lampedusa, mentre la regione con il maggior numero di migranti accolti resta la Lombardia, l'ultima la Valle d'Aosta. E intanto proprio di migranti ha parlato il capo dello Stato Mattarella nel suo incontro con il presidente della Repubblica tunisino Essebsi. Abbiamo parlato con il presidente Essebsi del fenomeno migratorio, dell'esigenza di governarlo andando alle cause del fenomeno. E contiamo su uno svolgimento veloce dei negoziati tra Tunisia e Italia per un nuovo accordo quadro in tema di migrazioni. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il tema dell'immigrazione tocca, come ben sappiamo, anche gli Stati Uniti. Prima apertura delle discussioni sul cosiddetto Muslim Ban in Corte d'Appello. Gli argomenti sono stati ascoltati, le parti, pressate dalle domande dei magistrati della Corte d'Appello di San Francisco durante un'ora di udienza telefonica trasmessa in diretta, hanno dibattuto le ragioni pro e contro. Pro e contro il divieto di Donald Trump ai rifugiati e ai visti per i cittadini di 7 paesi islamici. Il governo ne ha rivendicato la legalità e la necessità per la sicurezza antiterrorismo. Gli stati di Washington e del Minnesota, che hanno portato il ricorso, affiancati da 100 aziende tecnologiche, l'hanno condannato invece come incostituzionale e per danni irreparabili a persone come alle loro università e all'economia. Adesso toccherà alla Corte decidere a ore o a giorni. Decidere se schierarsi con il magistrato di primo grado di Seattle, che ha già sospeso il divieto su scala nazionale, o se smentirlo del tutto o almeno in parte, come chiesto dagli avvocati del Dipartimento della Giustizia. Certa è soltanto l'alta posta in gioco per Trump, che ha fatto del decreto sull'immigrazione il primo grande test del suo potere presidenziale. Due dei tre magistrati della Corte d'Appello sono di nomina democratica, con un passato impegnato contro misure discriminatorie su immigrati e gay. Il terzo è un repubblicano. Si esprimeranno per il momento non sul merito del caso, ma sulla sua adeguata credibilità legale e sull'autorità del giudice di primo grado di bloccare il provvedimento. Sullo sfondo, però, incombe una crisi istituzionale politica ben più profonda, che ha dominato le prime settimane della presidenza Trump e dovrebbe finire alla Corte Suprema. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Ci spostiamo in Russia, una notizia che riguarda Alexei Navalny. Tra i leader dell'opposizione a Vladimir Putin, il tribunale di Kirov ha giudicato colpevole Navalny di appropriazione indebita nella riedizione del processo Kirovles, già definito illegittimo dalla Corte Europea per i Diritti Umani e per questo riaperto, lo riporta la TASS. In base alla legge russa, Navalny non potrà dunque prendere parte alle presidenziali del 2018, come annunciato, perché pregiudicato. Siamo alle tensioni in Francia dopo l'arresto violento di un ragazzo di colore. L'appello dal letto di ospedale di Theo non è bastato. Quarta notte di violenze alle porte di Parigi dopo gli incidenti e le accuse alla polizia all'atto dell'arresto del 22enne di colore di Aulnay-sous-Bois. Nella sua cittadina, in verità, la calma è tornata, le sue parole sono servite, non così nei sobborghi vicini. Disordini, lanci di bottiglie incendiarie e cassonetti auto dati alle fiamme. La polizia ha arrestato 17 persone, i pompieri sono intervenuti per un inizio di incendio in una scuola, l'autista di un autobus è rimasto ferito in modo leggero dal lancio di una molotov. Violenze che sono entrate di prepotenza nella campagna elettorale per le presidenziali. Ieri, al capezzale di Theo, la visita del presidente uscente Hollande. Per Marine Le Pen, invece, il giro dei commissariati nelle banlieue per portare sostegno alla polizia. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Chiesto il processo per l'amministratore delegato dell'ENI e altre persone per la vicenda delle presunte tangenti in Nigeria. Mandati a processo il numero uno dell'ENI. Il PM di Milano Fabio De Pasquale chiede il rinvio a giudizio di Claudio Descalzi e altri 10 imputati nell'inchiesta sulle presunte tangenti pagate in Nigeria. $1.3 miliardi sarebbero stati versati, in parte da ENI, in parte da Shell, ad ex rappresentanti del governo del paese africano per ottenere i diritti esclusivi per lo sfruttamento del giacimento OPL 245. Un'accusa, quella di corruzione internazionale, che l'amministratore delegato del cane a sei zampe, ormai in scadenza, ha sempre respinto durante i due interrogatori in procura. Insieme a lui i PM chiedono il rinvio a giudizio per il suo predecessore Paolo Scaroni e poi ancora per mediatori italiani come Luigi Bisignani o componenti del governo nigeriano. Inoltre la procura vuole a processo anche due società, la stessa ENI e Shell. Ora sarà un GIP a dover decidere su un eventuale dibattimento per i big del petrolio. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci occupiamo adesso di una vicenda sulla quale siamo tornati spesso ed è quella che riguarda le adozioni internazionali. Le vicende si fanno sempre più intricate, i sospetti che dal Congo dei bambini siano stati sostanzialmente comprati sembra rafforzarsi. Sentiamo. Dimenticatevi la retorica intorno all'adozione, ai bambini e all'amore. Nel mondo delle adozioni internazionali è in corso una faida con colpi bassi, indagini, illazioni e vendette. Da una parte la Commissione Adozioni Internazionali, di fatto presieduta dalla vicepresidente Silvia Della Monica, che è in scadenza. Lunedì si saprà se verrà confermata o meno. Di certo non se ne va lasciando un clima di armonia. La sua gestione è stata fortemente contestata da molte famiglie e enti. E lei, nella bufera, si è tolta ieri qualche sassolino dalle scarpe in un convegno organizzato al Senato. Della Monica ha denunciato di nuovo l'ente AIBI che, a suo dire, ha permesso l'adozione in Congo di bambini che in realtà sarebbero stati sottratti alle famiglie dietro pagamento di denaro. Della Monica dice che della questione è stata interessata l'autorità giudiziaria, anche se a tutt'oggi nessuna procura d'Italia risulta aperto un fascicolo a carico di presunti ladri di bambini. AIBI smentisce e assieme ad altri enti chiede che la CAI e Della Monica facciano il loro dovere, ossia monitorino su presunte truffe, che ci sono, ma non a carico di AIBI, quanto a carico dell'ente torinese Enzo B, rinviato a giudizio per aver frodato le famiglie adottive italiane, e anche contro l'associazione Airone, che deve rispondere del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento, è stato presentato oggi il Salone del Mobile, sentiamo. Esportiamo oltre 1,3 miliardi, 1,4 miliardi sia in Francia che in Germania, negli Stati Uniti che siamo vicini al miliardo di esportazione, abbiamo la Cina che cresce del 16-18%, abbiamo mercati nuovi tipo l'Iran. Il presidente di Federlegno Roberto Snyder riassume così la crescita dell'export italiano nel settore arredo e individua l'unica eccezione nel mercato russo. Con un segno completamente diverso dagli altri anni, quindi non una perdita del 20-22%, ma abbiamo recuperato qualche punto a livello di esportazione. Alla conferenza di presentazione del prossimo Salone del Mobile è intervenuto anche il sindaco di Milano Beppe Sala e ha annunciato che all'inaugurazione del Salone ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha inoltre sottolineato i vantaggi per le città di manifestazioni cicliche rispetto a singoli grandi eventi. Sono molto favorevole alla serialità, molto favorevole a occupare delle settimane, perché questo permette di far meglio a livello organizzativo. Daniele Zinni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. E veniamo adesso al Festival di Sanremo, Festival di Sanremo che fa un record di ascolti, Marta Cagnola, oltre il 50% di share. Ciao, buongiorno, nostra Ciao, inviata Simone, a Sanremo. Vai. Corro fuori dalla sala stampa che c'è un po' di rumore, eccoci qua, allora. Beh, numeri, lo abbiamo detto, 11.374.000, 50,4% di share, cioè è la media migliore degli ultimi 12 anni. Bisogna calcolare la media, ovviamente, perché sappiamo che il pubblico della TV generalista in termini assoluti sta un po' diminuendo, quindi bisogna fare affidamento sulle percentuali. Quindi la percentuale più alta degli ultimi 12 anni per ritrovare un risultato così bisogna andare al Festival di Bonolis e Clerici, appunto, 2005. Picchi di ascolto mentre Raul Bova presentava Elodie alle 21:40 e durante l'omaggio agli eroi di Rigopiano. Per gli eroi di Rigopiano c'erano 16.113.000 spettatori, mentre in percentuale la punta più alta è stata quella dell'esibizione di Ricky Martin. È andato bene anche il Dopofestival, dato d'ascolto più alto dal 2003, ma come sappiamo non c'era da molti anni. Stasera cantano gli altri 11 big in quest'ordine: Bianca Zei, Marco Masini, Nesli e Alice Paba, poi Sergio Silvestre, Gigi D'Alessio, Michele Bravi, Paola Turci, Francesco Gabbani, occhio a Gabbani, Michele Zarrillo, Chiara, Rage e Giulia Luzzi. Questo è l'ordine di questa sera. Cosa ha detto in questa conferenza stampa Carlo Conti? Ha detto: è esattamente il Sanremo 2017 che avevo in testa, Maria De Filippi è un valore aggiunto, abbiamo una sintonia perfetta, e soprattutto ha detto: sono contento, sono orgoglioso, al di là dei numeri, perché è questa una tendenza degli ultimi anni, per i miei Sanremo, però basta, e ha chiusato: noi fiorentini quando diciamo basta lo diciamo per davvero. Insomma, chissà a cosa si riferiva Simone, non lo so. Va bene, grazie alla nostra Marta Cagnola per questo aggiornamento da Sanremo. Ovviamente continueremo a seguire tutte le vicende che riguardano il festival. Adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Inizieremo da Verona. A Verona c'è uno scontro in atto tra il sindaco, che vuole organizzare la copertura dell'arena, e un po' di gente che si occupa di cultura, di monumenti e non solo. Vediamo un attimo se Filippo Oreggi ci ha pronto il file di Sgarbi, facciamolo sentire, va. L'Arena di Verona è un monumento perfetto, non ha bisogno di un cappello, non ha bisogno di cappelle. Ecco, non ha bisogno. Ecco qua, poi ve lo facciamo sentire integralmente tra un attimo. Ne parliamo con lo stesso Tosi, con lo stesso sindaco di Verona. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: la tensione alta in Campidoglio, l'assessore Verdini sulla Raggi, impreparata, intorno a lei una banda, ma lui smentisce di aver detto queste esatte frasi. I grandi ascolti per il Festival di Sanremo, oltre 11 milioni di telespettatori, share che supera il 50%, il più alto degli ultimi 11 anni. Migranti, boom di arrivi nei primi 40 giorni dell'anno, 3.500 in più rispetto allo stesso periodo del 2016. Intanto negli Stati Uniti inizia la discussione sul Muslim ban in corte d'appello. Iniziamo adesso il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Verona, ma non prima di una risposta dovuta a qualche ascoltatore che, come al solito, si lamenta che ci stiamo occupando, secondo lui e secondo la sua opinione, probabilmente un elettore del Movimento 5 Stelle, e questo è rispettabile, ci stiamo occupando un po' troppo di Roma e delle vicende del Campidoglio. Vi voglio segnalare che abbiamo fatto la stessa cosa quando il sindaco di Roma era Ignazio Marino e che quotidianamente e anche oggi ci occuperemo anche del Partito Democratico. Andremo ad occuparci della vicenda dei famosi candidati fantasma a Napoli, un'altra vicenda allucinante. Non vi preoccupate che teniamo su queste cose il massimo equilibrio possibile. Flavio Tosi, sindaco di Verona, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, immagino che in città praticamente non si parli d'altro. Le faccio sentire Sgarbi, ne abbiamo sentito un passaggio prima, le facciamo sentire questa trentina di secondi integrali, perché parla anche di lei. L'Arena di Verona è un monumento perfetto, non ha bisogno di un cappello, non ha bisogno di cappelle, non ha bisogno di sindaci che vogliono mostrare la loro luminosa capacità attraverso il progetto di un architetto che ha inventato una tendina come un cappello, una tendina come una maschera con la veletta per una signora perfetta che deve proteggersi dal sole. L'Arena di Verona è un grande monumento antico che va lasciato com'è. E vabbè, Tosi l'ha sentito, sempre suggestivo Sgarbi comunque. Ce l'ha con quest'idea che avete di realizzare una copertura per l'Arena di Verona. C'è anche un progetto che, come dire, che ha riscosso il maggior consenso, che è quello che prevede una sorta di tenda sopra che poi si può richiudere a seconda della scelta e delle necessità, evidentemente. Cosa risponde a Sgarbi e poi anche all'ex soprintendente che dice che, insomma, è una roba che non va bene? Ma allora, all'ex sovrintendente rispondo con le parole dell'attuale sovrintendente, che per fortuna è una persona illuminata, che guarda in avanti, che sa accostare l'antico col moderno e che non ha una visione post-comunista o reazionaria della società, perché l'attuale sovrintendente ha detto: vediamo che progetti vengono fuori, vediamo la fattibilità e ci ragioniamo. Stessa posizione del Ministero dei Beni Culturali espressa dall'ex ministro Brai, confermata dal ministro Franceschini, che anche loro guardano la cultura con occhi che guardano in prospettiva e non solo al passato, perché l'Arena non è più quella di 2000 anni fa, perché Sgarbi, che è grande critico d'arte, sicuramente immagino dovrebbe saperlo, io non lo sapevo, per dire, l'ho saputo appunto affrontando questo tema, che le gradinate dell'Arena sono state rifatte due volte nei secoli, fra il 1500 e il 1600 e anche intorno al 1800, perché ci sono stati terremoto nel 1100 che è crollata una parte dell'arena, poi è stata usata nei secoli come cava, nel senso che sì, prendevano i marmi per costruire in città. Sì. E quindi riposando tutti i gradoni, mentre i romani avevano fatto le pendenze e quindi l'acqua di lavava e poi, diciamo, veniva raccolta, riposandoli, sono stati ricollocati per intero in quei secoli, non ci sono più le pendenze, sì, quindi adesso l'acqua si ferma, scava nei gradoni, ci sono i crolli sotto i gradoni, e come crolla Pompei sotto l'acqua, anche sotto gli arcovoli vengono giù i massi. Quindi la copertura in sostanza non serve a dare, come dire, a rendere più agevoli le rappresentazioni, o meglio non solamente a quello, ma in realtà no, ad offrire una vera e propria protezione all'arena. Ma infatti lo scopo secondario, se sarà possibile, è quello di aiutare l'utilizzo del monumento. Dico se sarà possibile perché la questione dell'acustica è assolutamente secondaria. E quindi lo scopo qual è? È coprire quando piove, perché appunto noi adesso spendiamo 14 milioni di euro fra quest'anno e l'anno prossimo sostanzialmente per la sigillatura e per fare gli impianti che ci sono sotto, perché la pioggia è il peggior nemico dell'arena, perché uno dice l'arena è solida, sta lì, invece in realtà sotto i gradoni si svuota e dopo a forza di svuotare crollano i gradoni. L'alternativa sarebbe, che è possibile tecnicamente, tirar giù tutti i gradoni e ricollocarli con le pendenze antiche, però questo vuol dire chiudere il monumento per 2 o 3 anni, e chiudere il monumento per 2 o 3 anni è una follia, visto che fa quasi 1 milione di visitatori all'anno e fa 1 milione di spettatori all'anno fra concerti di lirica e concerti di musica leggera. Quindi lei dice l'unica soluzione è questa, ma anche là i lavori, non è che ci si impiega poco a fare un lavoro di questo genere? Ma allora, guardi, intanto appunto, sempre per rispondere a Sgarbi, lì c'è stata una commissione dove erano presenti i più grandi architetti e strutturisti delle università italiane, tant'è che la conferenza stampa si è tenuta al Politecnico di Milano, hanno partecipato 84 studi da tutto il mondo, fra i più grandi studi di ingegneria del mondo, tant'è che chi ha vinto è chi ha coperto l'arena di Nîmes, chi ha fatto grandi coperture in stadi, in architettura moderna, quindi chi ha vinto ha una capacità progettuale straordinaria. È chiaro che questo è un cantiere pensato a com'è il monumento, tant'è che questo è l'unico progetto dove scompare tutto, quindi sia i teloni ma sia anche i cavi, quindi quando l'arena è aperta non si vede nulla, è tutto montato sull'anello di sommità con una struttura in acciaio che tiene su questa impalcatura, diciamo, e i tempi di cantiere sono 1 anno e mezzo, 2. È chiaro che come lo fai il cantiere? Lo fai salvando la stagione, quindi fai il cantiere da novembre fino a marzo, lo sospendi, lo riprendi il novembre successivo, in 2 anni, dopo in 2 stagioni lo mettono su. Lo dovrete mettere su in 2 stagioni, quando dovrebbero partire i lavori? Adesso ne abbiamo mandato il progetto che ha vinto al sovrintendente di Verona e al ministero. Adesso ci vogliono i tempi della valutazione tecnica, perché adesso appunto si entra nel merito, nel vedere il peso di quello che viene montato e come deve essere agganciato, quindi la praticabilità di questa ipotesi. Adesso comincia il percorso vero per essere autorizzati. Allora Tosi, io la ringrazio e vedremo come andrà a finire questa diatriba e questa querelle. Le auguro buona giornata e buon lavoro al sindaco di Verona Flavio Tosi, e torniamo su un'altra vicenda della quale ci siamo occupati in passato e che rimane sempre un po' là sottotraccia e poi ritorna. È la vicenda che riguarda l'Alto Adige, riguarda l'idea di tramutare una serie di toponimi, ossia nomi di luoghi, tramutarli in tedesco, ossia ci saranno solamente i cartelli e le indicazioni in tedesco e non più quelli in italiano. Ce ne siamo occupati perché se ne sta discutendo, se ne è discusso in una commissione chiusa, poi la palla è passata ai rapporti tra lo stesso Alto Adige e il governo. È stato investito della vicenda anche il senatore Francesco Palermo del Partito Democratico. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, preciso che no, non sono del Partito Democratico, sono un indipendente, questo è il motivo per cui sono stato indipendente. No, è stato affidato, perdone, il PD locale le ha affidato la gestione della trattativa con la SVP, mi sembra di aver capito. Sì. Senta, ma cosa ne esce da questa cosa? Perché, come dire, c'è gente come il consigliere provinciale Alessandro Urzì di destra che ha sollevato il problema, ha detto attenzione, stanno snaturando tutto, strapperanno via i toponimi italiani e via dicendo. Lei che cosa è riuscito a capire di questa vicenda? Ma è una vicenda che si trascina da oltre 70 anni in verità, ed è una delle ferite ancora non chiuse del conflitto, per il resto fortunatamente pacificamente risolto tra i gruppi linguistici in Alto Adige. Ora siamo ad un passo forse decisivo per togliere dal tavolo anche questa cosa. Ora, per chi non vive l'Alto Adige la cosa può sembrare assurda, ed è come se il marziano che arriva sulla Terra dice ma guardate questi di che cosa si occupano. Effettivamente un pochino sì, a dire il vero. No, ma è perfettamente comprensibile. Tuttavia questa cosa nella sua banalità superficiale nasconde in verità delle ferite molto profonde. Per cui il primo punto, quello fondamentale, è cercare di trovare una quadratura del cerchio. Ora, esiste una situazione giuridica abbastanza complessa che parte dall'accordo di Parigi, che è quello che garantisce l'autonomia dell'Alto Adige dopo la Seconda Guerra Mondiale, che prevede il principio della bilinguità dei nomi. Naturalmente tutto deve essere interpretato e la norma che si sta elaborando mira proprio a cercare di dare una definizione di che cosa sia bilingue. Sì. Allora, fermo restando che i nomi delle città, dei centri abitati e i maggiori nomi rimangono evidentemente bilingui, si lavora su ipotesi di gradazione della bilinguità rispetto. Cioè un nome, mi scusi, un nome mezzo in italiano e mezzo in tedesco, cioè non ho capito cos'è la gradazione di bilinguità. Che non tutti i nomi devono avere un completo corrispettivo in lingua italiana. Okay. Allora, ad esempio, se un nome aveva fino adesso, almeno teoricamente, un nome tedesco completo e un nome italiano completo, rimane il toponimo tedesco e si aggiunge la denominazione italiana malga, cima, monte, lago, quello che è. È naturalmente una questione di compromesso. Se lo si vede da parte italiana, è chiaro che ha poco senso. Si dice, ma che fastidio vi dà la terminologia, la toponomastica italiana quando nessuno mette in discussione la toponomastica tedesca? Ma qui sta il vero primo problema, perché se si continua a parlarsi per discorsi separati e non si riesce a mettersi anche nei panni dell'altro, e vale per entrambe le parti naturalmente, allora non si capisce e allora parte un... Devo dire Palermo che io dal mio piccolo punto di vista è una cosa che non capisco nemmeno io, nel senso che alla fine stan là, ci sono i nomi italiani, alcuni nomi sono ormai noti per essere italiani, si aggiungano i nomi tedeschi dove si devono aggiungere, si aggiungano i nomi italiani dove si devono aggiungere, basta. Per me il bilinguismo è questo, poi magari mi sbaglierò io, però è un ragionamento che ai miei occhi è un ragionamento di buon senso, ma magari sbaglio appunto. Allora, superficialmente si potrebbe dire di primo acchito che il fatto che ragioni così dimostra la sua salute mentale, quindi va bene così in verità. Il punto però è che non è mai tutto così bianco e nero, perché se questo, come in una relazione di coppia, ci sono dei momenti in cui si litiga e non ci si spiega perché quell'altro insista su delle cose che ci paiono assurde, ma se non ci si sforza di capire perché per alcuni rappresentanti, esponenti di lingua tedesca, una completa toponomastica italiana di alcuni nomi che poi magari sono stati inventati, poi si tira fuori l'eredità fascista e quant'altro, e io sarei il primo a dire basta, piantiamola con queste cose, ma se qualcuno ha un problema, le alternative sono due, o si manda all'esercito a rimontare i cartelli, oppure si cerca di trovare una soluzione. Mi dice solo una cosa, Palermo, quanti nomi, quanti toponimi sono in gioco in questo momento? Ora, sono in gioco, grazie, perché effettivamente sennò si perde l'idea del fenomeno. Stiamo parlando di una lista di 1526, di cui un centinaio scarsi sono contestati, su una toponomastica che è quella o quella fatta da Tolomei durante il fascismo, che comprende 8500 nomi, oppure una toponomastica totale che comprende anche i prati, le singole piccole particelle, che va oltre il 130.000. Quindi stiamo parlando in realtà di abbastanza poco. Allora, i simboli sono importanti. Sì, no, ma questo lo capisco. Evidentemente per gli altoatesini questi simboli sono importanti. Abbiamo ascoltatori altoatesini in linea. Scriveteci, effettogiorno@radio24.it, e spiegatecela un po', perché insomma è anche difficile da comprendere dopo che sono passati così tanti anni. Grazie a Francesco Palermo, senatore indipendente, per essere stato con noi. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione riprendiamo il nostro giro per l'Italia e riprendiamo da la vicenda dei candidati fantasma nelle liste del Partito Democratico a Napoli. La lista cresce, sono circa 9 persone adesso da quel che abbiamo capito, e c'è un indagato che è un consigliere comunale. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. L'assessore Berdini sulla Raggi, impreparata, intorno a lei una banda, poi lui smentisce, dice conversazioni carpite da un giornalista e non complete, resta alta la tensione in Campidoglio. Ottimi ascolti per il Festival di Sanremo, oltre 11 milioni di telespettatori e share che supera il 50%, sono sicurissimo, non lo rifarò, dice Carlo Conti. Migranti, boom di arrivi nei primi 40 giorni dell'anno, 3.500 in più rispetto allo stesso periodo del 2016, poco più di 3.000 i ricollocamenti. Negli Stati Uniti intanto inizia la discussione sul Muslim ban in corte d'appello, i giudici assicurano, decideremo presto. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Effetto giorno. Andiamo a Napoli ora per una vicenda della quale ci stiamo occupando da qualche giorno e per ora parzialmente confinata solamente nelle cronache locali. Succede questo, parte tutto con una ragazza down che scopre, o meglio i genitori scoprono che è stata candidata al consiglio comunale, candidata a sua insaputa, e poi la vicenda si allarga al consiglio comunale di Napoli in una lista collegata alla candidata del Partito Democratico Valente. La cosa si allarga, alcune persone raccontano di aver ricevuto delle lettere nelle quali sostanzialmente gli si intimava di rendicontare le spese elettorali, pena una multa che poteva arrivare fino a 105.000 euro. Abbiamo sentito tra l'altro una di queste persone nei giorni scorsi, l'avvocato Biondi, sentiamola, va. L'ho scoperto, come lei stava anticipando, anche io con una comunicazione che mi è arrivata dalla Corte d'Appello di Napoli, in cui mi chiedeva di rendicontare le spese, pena un'ammenda fino a 100.000 euro. Avevo avuto, diciamo, delle avvisaglie nel periodo elettorale, perché qualche collega aveva letto il mio nominativo su queste liste e mi aveva chiamato dicendo: ma sei candidata? Io in quel momento, le dico la verità, avevo pensato a un caso di omonimia. E certo, perché insomma non è che di Biondi, Donatella Biondi, ne esistano poche, probabilmente in una città grande come Napoli. Mariano Maugeri del Sole 24 Ore, buongiorno Mariano, benvenuto. Buongiorno, ciao Simone. Allora, abbiamo il primo indagato tra l'altro per questa vicenda, no? Sì, che è un consigliere comunale ed è, diciamo, fa parte del nucleo di comando poi della campagna elettorale della Valente, insieme al marito della Valente, che ai tempi della Iervolino fu assessore con la Valente della giunta Iervolino, tra l'altro assessore alla nettezza urbana nel momento più tragico di Monnezzopoli. Stiamo parlando di personaggi che si erano iscritti, diciamo, sul fronte bassoliniano, erano bassoliniani di ferro a quei tempi. Poi ovviamente c'è stato lo scisma, cioè Bassolino è stato messo all'angolo, anche se poi, come sappiamo, fece la campagna elettorale per le primarie contro la Valente, e la Valente doveva essere l'astro nascente all'interno del PD. Ricordiamo che la Valente, tra l'altro, oltre ad essere consigliere comunale eletto, è da qualche legislatura deputato della Repubblica. Io mi chiederei... Scusami, no, perché sono arrivati a questo punto? Perché... Mariano, te lo faccio dire subito, fammi fare solo una piccola precisazione doverosa. Abbiamo provato a contattare l'indagato Salvatore Madonna, che non vuole parlare in questo momento, e quindi giusto come corretta precisazione. Prego Mariano, vai. No, come mai sono arrivati a questa situazione? L'ho ammesso qualche giorno fa anche Gennaro Mola, marito della Valente, appunto, nonché ex consigliere comunale. Sostanzialmente è un modus operandi diffuso a Napoli e anche altrove, soprattutto in una fase in cui i partiti sono sempre più deboli e sempre meno rappresentativi. In cima alle liste ci sono gli uomini da 90, i pezzi da 90, quelli che insomma fanno parte dell'entourage dei partiti. Dal numero 20 in poi ci sono malcapitati che vengono rastrellati ovunque. E il paradosso, se vuoi, che i veri candidati della società civile erano quelli a loro insaputa, non i candidati ufficiali del partito, che sono lì appunto per i soliti accordi, piccoli accordi di potere. Altra cosa che probabilmente gli ascoltatori non sanno: c'erano fior di candidati della società civile pronti a correre contro De Magistris a un cenno di Renzi. Il PD li ha olimpionicamente ignorati. Altra domanda, perché l'hanno fatto? Ed erano candidati che potevano contendere la leadership. Sono stati ignorati perché preferiscono un candidato perdente ma fedele a un candidato capace, non dico infedele, ma con una sua storia personale, con una sua intelligenza, una sua sensibilità, una sua cultura, e che quindi magari non sarebbe disposto ad obbedire a tutti i diktat dei partiti. E preferivano addirittura, e con questo ti ringrazio, Mariano Maugeri, non solo appunto dei candidati più deboli ma fedeli, ma addirittura dei candidati che non sapevano di esserlo. Niente male. Grazie a Mariano Maugeri del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Una storia, una brutta storia, che arriva da un CAS, un centro di accoglienza straordinaria per migranti nel torinese, in Valpelli. C'è un'inchiesta aperta dalla procura nella quale si sospetta che alcune ragazze nigeriane, 26 in tutto, utilizzassero, ovviamente sfruttate per questo, insomma, con direi scarse colpe loro, utilizzassero questo centro di accoglienza come base per poi andare a prostituirsi. Una vicenda che ha a che fare evidentemente col traffico di esseri umani. Saluto Monica Cerutti, che è in linea con noi. Buongiorno e benvenuta. L'assessore piemontese alle politiche giovanili, diritto allo studio universitario, cooperazione decentrata, pari opportunità, diritti civili e appunto immigrazione. Allora, questo è un caso sul quale evidentemente la procura sta indagando e sul quale oggettivamente adesso, proprio perché l'indagine è in corso, possiamo dire poco. Dalla sua percezione, che estensione può avere un fenomeno di questo genere? Purtroppo questo fenomeno ha un'estensione molto più alta di quella che pensiamo. E noi abbiamo già da tempo proposto, dico noi come regione, un progetto sperimentale al Ministero degli Interni, proprio perché sarebbe utile che le persone che arrivano, io parlo chiaramente qui nel territorio piemontese, subito al centro di prima accoglienza, in particolare noi abbiamo il centro di Settimo, possano essere, se sospettano di essere delle potenziali vittime di tratta, indirizzate non appunto ai normali CAS, no? Così come veniva detto, no? Quindi i centri di accoglienza straordinaria che sono all'interno del sistema di accoglienza generale, ma quelle che noi chiamiamo comunità di fuga, che sono proprio quelle destinate alle vittime di tratta. Devo dire che il fatto che quello che è il sistema di emersione della tratta e il sistema di accoglienza sempre di più dovrebbero trovare dei punti di contatto. E no, questo nostro progetto sperimentale, noi auspichiamo che prima o poi venga perché nei CAS, Cerutti, nei centri di accoglienza normali, diciamo così, esatto, ovviamente non ci sono solamente le ragazze, ma ci sono anche i loro sfruttatori spesso. Spesso purtroppo capita questo, o comunque non c'è purtroppo del personale preparato rispetto a questa problematica, e quindi le ragazze vengono già magari individuate dal centro di prima accoglienza e poi appunto nei CAS continuano ad avere rapporto con i loro sfruttatori. Purtroppo questo sistema è molto organizzato, e questo è tra l'altro anche oggetto, sono piemontese, però partecipo alla cabina di regia nazionale presso il Dipartimento Pari Opportunità, e da lì si vuole avviare proprio un lavoro che è quello di contatto col Ministero degli Interni, perché sempre di più questi due sistemi debbono appunto dialogare. E questo è effettivamente molto urgente. Io devo dire che appunto questo è stato rilevato, questo caso, ma purtroppo se quella che è la persona che richiede asilo è una donna, poi purtroppo vediamo che questo fenomeno si sta estendendo anche alla componente maschile, ma fino adesso se donna è nigeriana, il fatto che sia potenziale vittima di tratta non è quasi certo, ma è molto, ci siamo molto vicini. Ci siamo molto vicini. La ringrazio. Grazie a Monica Cerutti, assessore alle politiche giovanili, diritto allo studio e molte altre cose, tra cui l'immigrazione della regione Piemonte, per essere stata con noi. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.